أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Buonasera, siete collegati con Radio Asilo con una nuova trasmissione di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Come di consueto andiamo in onda il martedì alle 19, però informiamo le ascoltatrici, gli ascoltatori che questa trasmissione la stiamo registrando di lunedì, quindi il giorno prima. Davide, ci sei in collegamento con noi? Sì, ci sono, buonasera a tutte e tutti. Perfetto, Davide, che dici? Vogliamo fare un breve sommario di questa puntata? Sì, diciamo che partiremo oggi innanzitutto dall'articolo di Antonio Mazzeo comparso su Pagina Esteri, guerra in Medio Oriente, e l'esercitazione, una maxi esercitazione che si terrà negli spazi aerei e nelle acque italiane, che vedrà coinvolte l'Italia, gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito ed Israele. Inoltre, sempre per restare in tema di armi, sempre da Pagine Esteri ci ricordano che la pandemia non ha frenato l'aumento della spesa militare globale. E parlando di Israele, ovviamente non possiamo non parlare di quello che la notizia, noi stiamo registrando, e oggi è lunedì 7, che a Gerusalemme i gruppi dell'estrema destra israeliana, che organizzatori della marcia delle bandiere il 10 giugno nella zona palestinese della città, hanno dovuto annullare l'iniziativa perché la polizia non ha autorizzato il passaggio del corteo nel quartiere musulmano della città vecchia. Ciò in stretta connessione comunque con la minaccia di Hamas che avrebbe lanciato che ci sarebbero state conseguenze nel caso in cui questa marcia si fosse tenuta a Gerusalemme Est. Inoltre, proprio notizia di oggi, sempre lunedì, che Hamas ha rilasciato un audio in cui ci sarebbe un audio di un soldato che è sotto il suo controllo, sebbene ci siano state smentite da parte di Israele, è comunque un fatto importante che potrebbe presumere un nuovo scambio di prigionieri tra Hamas e l'autorità, avvenuto per il soldato Gilad Shalit. Ed inoltre andremo anche in Iraq, parlando di pozzi di petrolio e del paradosso che ci segnala Carlo Cruciati, proprio il corrispondente del Manifesto in questo momento in Iraq, che il fatto che l'Iraq sia il secondo produttore di idrocarburi dai paesi dell'OPEC, ma nonostante questo il gas naturale viene bruciato e si compra quello iraniano e le bollette portano via un terzo dello stipendio, anche se i blackout sono continui. Quindi diciamo abbiamo molta carne a cuocere, a cui si aggiunge la notizia dell'arresto del leader del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, Omar Shaded, che è stato arrestato dalle autorità sioniste mentre era al posto di blocco di Calandia nella città occupata di Gerusalemme. Questa volta sono stati i sionisti ad arrestare i compagni. Nelle scorse settimane sono state settimane che hanno visto arresti politici non solo dalla parte delle autorità israeliane, ma anche dalla cosiddetta autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas. E infatti c'è stato anche un comunicato rilasciato su Facebook, rilasciato dall'Unione Democratica Araba Palestinese in Italia, l'UDAP. النسوان هالدني صار مصيف in studio, quindi partiamo da quella che sarà questa prossima maxi esercitazione negli spazi aerei e nelle acque italiane. Si tratta infatti di 12 giorni di esercitazione aeronavale con l'uso dei più avanzati sistemi missilistici in un'area geografica, come sottolinea Antonio Mazzeo, che va dai poligoni della Sardegna fino alla Campania, alla Basilicata, alla Calabria, al Golfo di Taranto e al Mar Ionio. Un test strategico della potenza di fuoco dei nuovi cacciabombardieri in dotazione all'aeronautica d'Italia, Stati Uniti d'America, Regno Unito ed Israele, che è il paese che solo un paio di settimane fa, ricordiamolo, ovviamente noi lo ricordiamo sempre nei nostri programmi, ha bombardato con i propri aerei la striscia di Gaza. E proprio Israele, tramite il portavoce delle forze armate, fa sapere che la maxi esercitazione degli spazi aerei nelle acque italiane sarà un'opportunità storica per addestrare i propri piloti alle prossime guerre in Medio Oriente, Iran in testa. Infatti il 6 giugno ha preso il via alla base aerea di Amendola a Foggia la Falcon Striker 21, l'esercitazione multinazionale promossa dallo Stato Maggiore della Difesa congiuntamente ai due partner NATO, Stati Uniti e Regno Unito, e Israele. Ad oggi nessun comunicato ufficiale è stato emesso dalle autorità italiane, sebbene mi sembra ci sia stato anche un aggiornamento in tal merito, in quanto Difesa Online ha riportato che le parole pronunciate a gennaio dal capo di Stato Maggiore israeliano Kokavi, che la decisione spetterà poi ai politici, tuttavia è necessario tenere già pronti i piani operativi. Dicevamo quindi nessun comunicato è stato emesso dalle autorità militari italiane, probabilmente imbarazzate per la partecipazione a questi War Games dei sei cacciabombardieri F-35 dell'IAF, dell'Israelian Air Force, che hanno fatto il loro debutto operativo proprio durante la recentissima operazione Muro di Guardiani del Muro a Gaza. Proprio di questi aerei che sono stati testati sul campo, come spesso fa Israele per propagandare i propri prodotti all'estero, saranno al centro di queste esercitazioni. Ed inoltre, sempre secondo il quotidiano israeliano, oltre ai nuovi caccia Lockheed Martin e Falcon Strike 21, prenderanno parte anche gli F-16 USA. Un aereo spia Gulfstream ETAM e due aerei da rifornimento Boeing RAM dell'aeronautica israeliana, due velivoli tanker KC-767 HC-130 e un velivolo da ricognizione. Si tratta, come ha espressamente dichiarato l'alto ufficiale dell'esercito israeliano, di prepararsi per il loro obiettivo. E su questo sono stati molto onesti. Il loro obiettivo, ovviamente, è l'Iran. E dunque, quindi questa esercitazione è necessario in tal senso mobilitarsi per smascherare quello che avverrà sulle nostre teste, questa maxi operazione, anche perché è ancora più schifoso che questa si tenga a pochi giorni, a poche settimane dai crimini di guerra che sono stati compiuti da quegli stessi aerei nella striscia di Gaza. Proprio per restare in tema di armi, ci teniamo a sottolineare il fatto, sempre Pagina Esteri ci offre due importanti articoli a cui poi vi rimandiamo per la lettura globale, che riguarda appunto la vendita delle armi durante la pandemia, in quanto secondo l'ultima edizione del rapporto redatto ogni anno dall'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace, il SIPRI di Stoccolma, e pubblicato il 26 aprile scorso, nel 2020 gli stanziamenti mondiali per il settore bellico sono arrivati a 1.981 miliardi di dollari, 1.650 miliardi di euro per dirle in euro, con un aumento del 2,6% rispetto al 2019, anno in cui si era già toccato un aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente. Si tratta del livello più alto registrato dal 1988 in piena guerra fredda per ciò che riguarda gli acquisti di materiale bellico, e questo nonostante il PIL mondiale, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, sia crollato l'anno scorso del 4,4%. Nel 2020, quindi, la spesa militare ha raggiunto una media globale del 2,4% del PIL rispetto al 2,2% del 2019. Si tratta quindi dell'aumento annuale maggiore dalla crisi finanziaria ed economica mondiale del 2009. La spesa dei primi 15 paesi della classifica ha raggiunto 1.603 miliardi di dollari nel 2020, cioè l'81% della spesa globale. I cinque paesi che spendono più in armi in ordine sono gli Stati Uniti, la Repubblica Popolare Cinese, l'India, la Russia e il Regno Unito. Da soli concentrano il 62% del totale mondiale degli armamenti. Quindi cifre da capogiro che fanno ancora più accapponare la pelle se si pensa al fatto che stiamo uscendo da una pandemia globale, c'è stata una forte recessione da cui non ci si risolleverà così facilmente in breve tempo, e nonostante questo le vendite di armi aumentino, cosa che d'altronde non dovrebbe nemmeno nemmeno meravigliarci. E ciò detto, direi, Michele, non so se vuoi aggiungere tu qualcosa in merito, oppure se vogliamo passare a quella che è la situazione palestinese, visto che l'abbiamo toccata solo esternamente rispetto a quella che sarà questa maxi esercitazione che vede coinvolto in primis l'Italia, il suolo italiano. Sì, Davide, insomma, questa storia di queste maxi esercitazioni che vengono fatte poi come seguito agli accordi militari che puntualmente vengono presi da tutti i paesi con chi commette crimini di guerra, chi bombarda Gaza con il fosforo bianco, che purtroppo è tristemente conosciuto e non è la prima volta che viene utilizzato. Insomma, sono notizie che ci procurano parecchio sdegno e risentimento, soprattutto perché vengono fatte dal governo italiano e quindi, anche se non vengono fatte in nostro nome con il nostro consenso, in qualche modo sono delle scelte che, tra virgolette, ci rappresentano. Comunque, Davide, sì, sicuramente per cambiare argomento dovremmo anche andare un po' a parlare di quella che è la situazione a Gaza, perché in seguito ai bombardamenti che si sono susseguiti durante l'ultima escalation militare, sicuramente la situazione nell'enclave palestinese è peggiorata notevolmente. Per esempio, anche Michele Giorgio riportava in uno dei suoi reportage da Gaza come anche le infrastrutture a Gaza abbiano subito nuovi danni che si vanno ad aggiungere a quelli già avuti nei vari bombardamenti nei mesi, negli anni precedenti. E quindi parlava anche della centrale elettrica di Gaza, che è l'unica centrale presente a Gaza, che in ogni caso copre solo una minima parte del fabbisogno di Gaza, ma che in questo momento, in questo periodo, si trova a dover lavorare al 30-40% del suo potenziale proprio per la scarsità di gasolio per alimentarla, appunto. Nel frattempo, l'energia elettrica che alimenta Gaza, i circa 6 milioni di chi i 6 kilowatt che se i 6 megawatt, scusate, che servirebbero per alimentare Striscia di Gaza, quasi il 70%, insomma, arriva da Israele. E Israele, proprio con l'offensiva militare, ha ridotto notevolmente la quantità di corrente che arriva a Gaza, e quindi chiaramente questo ha determinato non solo ulteriori disagi e problemi alla popolazione, ma immaginiamo come possono funzionare anche le strutture sanitarie, o per esempio uno dei problemi che purtroppo affligge la Striscia di Gaza, quello dei liquami, in quanto queste pompe di sollevamento che servono appunto per pompare e per filtrare le acque nere di Gaza, senza corrente non possono funzionare, e quindi questi liquami devono essere necessariamente sversati così come sono in mare. Questo chiaramente va ad aggravare ulteriormente la problematica connessa all'inquinamento nella Striscia di Gaza, che è già elevatissima. Infatti, lo ricordiamo, è il posto della Terra dove c'è la maggiore incidenza di anemia nei bambini, insomma. E questo ovviamente non si sa esattamente qual è il motivo, ci sono varie teorie. Avrete magari anche sentito del fenomeno dei bambini farfalla, questi bambini, e sono purtroppo tantissimi a Gaza, che sviluppano questa sindrome multiorgano, che si presenta quasi come una malattia autoimmune, che in realtà i medici, la medicina l'ha conosciuta solo a Gaza. Questa è una malattia endemica di Gaza, non è una malattia contagiosa, ma probabilmente è uno dei problemi di salute che nascono in un ambiente fondamentalmente inquinato, soprattutto anche dalle armi che ha utilizzato Israele e che utilizza ancora oggi sulla Striscia di Gaza, perché di fatto quello è un laboratorio a cielo aperto, quindi nessuno sa bene che cosa, quali agenti chimici scarichino sul terreno e quali siano poi gli effetti di salute anche a lungo termine che hanno sulla popolazione, e in particolar modo sui bambini, che hanno appunto un organismo in accrescimento, quindi più suscettibile a sostanze inquinanti. Per esempio, noi possiamo riportare il fosforo bianco che è stato utilizzato anche 2 settimane fa, però perché dalle immagini si vede chiaramente, insomma, è un'arma abbastanza nota da più di 70 anni, insomma, quindi è facile riconoscerla. Però di fatto chi può sapere quali porcherie, schifezze chimiche scarichino gli israeliani nella striscia di Gaza? Tra le altre cose, proprio perché quello laboratorio a cielo aperto, l'interrogativo agghiacciante che mi viene in mente è che probabilmente nemmeno loro sanno quali saranno gli effetti. Come suava de stella Betlem, come suava de stella. E come sono a fumare Stefanes, come sono a fumare Stefanes, thank you. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta canta speranza, e che speranza cam, risperata in un mondo. Come son fuse giura Betlem, come son fuse giur. Io sono la luna mesca negolur, o sono la luna mesca negolur, o sono la luna. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta canta speranza, e che speranza campa, risperata in un mondo. Canta Palestina, canta canta speranza, e speranza cam, risperata non muore, non muore. Canta Palestina. Michele, dicevamo in apertura di questa marcia dei gruppi di estrema destra israeliana, che è la cosiddetta marcia delle bandiere, che si sarebbe dovuta tenere il 10 giugno nella zona palestinese di Gerusalemme, e che è stata annullata l'iniziativa proprio perché la polizia non ha autorizzato il passaggio del corteo nel quartiere musulmano della città vecchia. Non sono state rilasciate dichiarazioni in merito, sebbene oltre a questo divieto di manifestazione manifestare in quella zona della città, ma è evidente come questa decisione da parte delle autorità israeliane sia anche legata alla minaccia fatta dalle brigate al Qassam da Gaza, che nel caso in cui questa marcia si sarebbe tenuta ci sarebbero state delle conseguenze e si sarebbe realizzato un nuovo 10 maggio, facendo appunto riferimento a quella che era stata poi l'escalation che aveva portato al forte lancio di razzi, alla distruzione che era stato successivo a quello che era successo nella parte est di Gerusalemme, appunto delle famiglie che venivano cacciate da Sheikh Jarrah, solo l'ennesimo atto di brutalità nei confronti dei palestinesi, l'ennesimo atto di polizia etnica, e quello che stava avvenendo sulla spianata delle moschee in pieno periodo di Ramadan. Quindi ciò è da anche da strettamente legato questa decisione di non esacerbare gli animi proprio in questo momento, anche al fatto del che si sta dando vita a questo nuovo governo israeliano. E infatti domenica si è tenuta la prima riunione dei leader della nuova eterogenea maggioranza e il voto di fiducia del nuovo governo, che per la prima volta non vedrà Netanyahu premier, è atteso in questi giorni, in questa settimana. Ricordiamo che l'accordo per formare un nuovo governo era stato trovato la settimana scorsa, dopo settimane di trattative che erano iniziate dopo le elezioni del 23 marzo, che come le tre precedenti tenute negli ultimi due anni nello Stato sionista non avevano avuto un chiaro vincitore. In mezzo c'è stata la guerra contro i gruppi palestinesi della Striscia di Gaza, e il nuovo governo, questo nuovo governo israeliano, questo nuovo governo del cambiamento, chiamiamolo così, che cambiamento non è, ovviamente siamo sarcastici, sarà composto da quasi tutte le forze di opposizione, che vanno dalla destra radicale alla sinistra laica, e nei primi due anni dovrebbe essere guidato dal democraticissimo Naftali Bennett, uno dei più noti politici israeliani di destra e capo del piccolo partito Yamina, e il quale ha sempre detto che si sarebbe sempre opposto alla creazione dello Stato di Palestina, anzi che si sarebbe dovuto procedere con l'annessione della Cisgiordania. Questo per dire come personaggi, ma la sostanza della politica sionista e ciò per quanto riguarda l'occupazione della Palestina non cambia, anzi stiamo parlando di persone ancora più radicali che acuiranno anche l'odio nei confronti l'odio anti-arabo e infatti ha tanto da appoggiare anche azioni squadristiche a danno dei palestinesi commessi da gruppi estremisti che si fanno portavoce del cosiddetto price tag, del prezzo da pagare. La riunione comunque che si è tenuta domenica è stata l'occasione per discutere di ministeri e di competenze, e quindi Bennett resterà primo ministro per due anni, poi sarà sostituito da Lapid, leader del partito centrista, e l'ex capo di opposizione Benny Gantz rimarrà ministro della difesa, mentre Gideon Saar, leader del partito di destra Nuova Speranza, sarà prima ministro della giustizia e poi degli esteri. In tutto questo, questa formazione del nuovo governo, si inserisce anche la notizia data da Hamas, o meglio l'audio che è stato rilasciato da Hamas, quest'audio di un soldato che implicherebbe un soldato israeliano che è stato catturato, anzi due soldati Hamas afferma di avere nelle sue mani, e sono Hadar Goldin e Oron Shaul, che sono stati catturati durante la guerra del 2014, e due altri ex soldati, Ismail Al-Sayed e Aveyram Mengistu, che entrarono a Gaza in circostanze mai chiarite. Quest'audio che è stato ascoltato durante il programma, un programma israeliano sul canale Channel 12, riporta anche le affermazioni della difesa israeliana, che dichiarazioni ufficiali secondo le quali sarebbe tutto da dimostrare l'autenticità di questo video. Molti infatti affermano che tra i detenuti, tra i prigionieri tenuti da Hamas, alcuni siano morti durante poi la scorsa incursione militare, sebbene Hamas abbia sempre smentito, ma nel caso in cui sia avviato uno scambio di prigionieri, si parla anche di possibili contatti in tal senso mediati dall'Egitto, è ovvio che sarebbe un colpo importante. Ricordiamo lo ultimo scambio di prigionieri che ha riguardato il prigioniero Shalit nel 2011, che vide il rilascio di oltre 1000 palestinesi, quindi potrebbe essere un'importante arma di pressione. In tutto questo procedono, per ciò che riguarda i prigionieri, gli arresti purtroppo in Cisgiordania. E gli arresti che proseguono in Cisgiordania, innanzitutto, come vi dicevamo in apertura, c'è stato l'arresto del leader del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, Omar Shaded, e ricordiamo anche il fatto degli arresti politici che sono stati posti in essere dall'autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas nei confronti dei giovani militanti e attivisti palestinesi. Noi non vogliamo acuire un conflitto o acuire quelle divisioni che riguardano i palestinesi, le fazioni palestinesi in Palestina, e riportarlo qui in Italia. È ovvio che noi non abbiamo partecipato alla manifestazione del giorno 5 che si è tenuta a Roma, che non ha visto una grossa partecipazione, e tra le motivazioni c'è anche questa mancata critica nei confronti dell'ANP, soprattutto di una classe politica corrotta che piuttosto che fare gli interessi del proprio popolo sta facendo gli interessi dell'occupante. Basta vedere il video che è stato rilasciato, l'intervista rilasciata dallo stesso Abu Mazen, il quale affermava che appunto gli arresti stanno avvenendo in piena cooperazione con le autorità israeliane. Noi non possiamo appoggiare questa politica, noi appoggiamo chi resiste, e proprio da parte di chi resiste in Palestina, col proprio corpo, con la propria vita, a rischio di essere arrestato o di morire, l'input è verso un'altra soluzione, è verso una lotta incentrata non tanto sul riconoscimento dello Stato palestinese, ma quanto sul riconoscimento dei propri diritti e sul fatto che Israele applica l'apartheid dal fiume al mare, e quindi una nuova prospettiva, che poi è la prospettiva dello Stato unico, non sarebbe l'unica a poter dare giustizia a queste nuove generazioni palestinesi, che fortunatamente molte delle quali non si riconoscono nelle vecchie leadership. Perfetto, Davide, sicuramente cercheremo di approfondire il più possibile questi temi anche martedì prossimo. Vi salutiamo e vi ricordiamo che ci potete riascoltare in podcast oppure in replica sempre su radioasilo.it domani alle 11. In ogni caso vi invito ad iscrivervi al nostro canale Telegram, appunto Radio Asilo, e a seguirci pure sui nostri canali social su Facebook. Vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti e tutti.